A me interessa un po' il dispositivo sociale che avete messo in campo come villaggio bioedile, nel senso che ho visto sul vostro sito che le persone possono aiutare non solo donando dei soldi, ma anche per esempio mettendo a disposizione delle competenze, venire a lavorare praticamente all'interno del cantiere, piuttosto che comunque appunto l'utilizzo dei social network per creare attenzione, piuttosto che altri, non so, ho visto i filmati della Guzzanti che vi sostiene. E mi sembra questo un dato importante, nel senso che appunto, certo, il rapporto con le istituzioni è importante proprio per quello che dici tu, perché poi dopo questi primi nuclei abitativi, poi c'è il problema della ricostruzione dei centri storici in cui per forza di cose deve intervenire l'autorità, diciamo, locale, però invece questo smuoversi al di là di quelle che sono le risposte istituzionali sull'agire e sull'intelligenza di capire che ci sono delle persone che possono aiutare al di là delle capacità, diciamo, monetarie, no? Di ognuno, perché poi c'è chi non ha soldi, ma c'è chi ha competenze e mestiere per aiutare, e che sono soldi risparmiati, cioè è tutti i soldi risparmiati, perché poi insomma, cioè sono dispositivi sociali molto importanti, secondo me. Da capire. Vorrei capire se sta funzionando, poi al di là delle intenzioni, se sta funzionando anche per esempio, cioè e come eventualmente a che punto siete, perché comunque fa freddo e penso che lì faccia molto freddo, a che punto siete, se c'è ancora bisogno, proprio per capire poi nella pratica, perché io per esempio ho degli amici che sono elettricisti e mi hanno detto, ah, noi potremmo andare, magari facciamo una macchinata, capire. Si può come interagire, ecco.